Voci d'impresa. Vite e storie dietro l'azienda. Benvenuti a Voci d'impresa da Anna Marino. Questa puntata speciale dedicata alle storie di donne e giovani che nel nostro paese hanno creato e fatto crescere imprese e idee nuove, funzionanti e concrete, nonostante i tempi difficili che attraversiamo, e che sono state per questo selezionate e premiate con Gamma Donna 10 Lode, il riconoscimento promosso da Intesa San Paolo e Ministero della Gioventù nell'ambito del 4° Salone Nazionale dell'Imprenditoria Femminile tenutosi il 4-5 ottobre a Vicenza. Dopo 3 edizioni torinesi. Ideato e progettato nel 2004 da Valentina Communication, agenzia con sede a Torino e 30 anni di esperienza nelle relazioni pubbliche e nella comunicazione per aziende ed enti in Italia, il Salone, dal tema Donne e Giovani, la vera sfida per il futuro del Paese, quest'anno coincide con il 150enario dell'Unità d'Italia e ha ricevuto per la seconda volta una speciale medaglia di riconoscimento dal Capo dello Stato Giorgio Napolitano. Oggi parlano le vincitrici del 4° premio Gamma Donna 10 Lode, uno zoom su esperienze aziendali eroiche da cui trarre spunto e voglia per andare avanti o cominciare. Iniziamo dalla più giovane, Alice Meneghetti, di RDS Nordest, una nuova attività del Trevigiano nel settore informatica e sviluppo di consulenza software. Alice, data di nascita 14 settembre 1983, spiega come si è accesa la lampadina. L'idea nasce dalla collaborazione con i clienti della divisione IRP, clienti soprattutto del settore alimentare che hanno espresso l'esigenza di informatizzare il proprio laboratorio di analisi e di controllo qualità. Io ho fatto una tesi di laurea sul controllo qualità, abbiamo fatto a livello aziendale delle ricerche di mercato e al momento non c'erano delle soluzioni. La laurea non è molto lontana, quanti anni ha? Io ho 28 anni, mi sono laureata nel 2008 e la tesi sul controllo qualità è quella fatta ancora nel 2005 quando ho sostenuto la tesi di laurea triennale. Praticamente nel corso della quale avevo già visto quali potevano essere le esigenze nel mondo alimentare in particolare, ma in generale sui laboratori che facessero controllo qualità, quindi anche laboratori conto terzi. Quali sono stati appunto gli aiuti che sono venuti incontro all'idea e quali sono stati invece gli ostacoli, i freni che hanno purtroppo rallentato la realizzazione, se ci sono stati? Gli aiuti sicuramente principali sono di provenienza aziendale con all'interno delle persone che avevano già esperienze nel mondo dei laboratori di analisi e nel settore alimentare. Poi i nostri clienti che ci hanno espresso quali esigenze avevano, quindi una collaborazione forte con i clienti che avevamo. Contro abbiamo sicuramente le spese per l'investimento in ricerca e sviluppo, sono state all'inizio erano una spesa cospicua, una spesa elevata. Per un'azienda di non grandi dimensioni si parlava di centinaia di migliaia di euro. C'è un'eroicità nell'essere così attenti alla qualità, all'ambiente? Non si può parlare di eroi. Noi siamo attenti sempre all'innovazione, anche adesso. È un mercato, quello dei laboratori, in continua evoluzione, con normative dettate dalle norme sulla qualità. Quindi è un mercato in cui non ci si può fermare, ma si deve sempre innovare. Secondo me è fondamentale proprio approfittare di questi momenti di crisi per fare una valutazione dei prodotti che si hanno e cercare di innovare e capire quali sono le nuove esigenze. Le case discografiche sono intenzionate a cessare la produzione di CD nel giro di un paio d'anni. Ecco come fare impresa, allora, nel settore industria elettronica, audio consumer, guardando al futuro. Ce lo spiega la seconda premiata, Nadia Marino, M2 Tech SRL, con sede nel Pisano ma con occhio al mondo. All'inizio, nel 2007, abbiamo fondato l'azienda lavorando semplicemente come consulenti per altre aziende. Poi nel frattempo, siccome siamo molto appassionati di musica e anche appassionati di elettronica applicata all'audio, ci siamo accorti che molte persone utilizzavano il computer di casa come sorgente per l'ascolto della musica, non utilizzavano più i lettori CD e molte di queste persone, soprattutto gli audiofili, gli appassionati di hi-fi, desideravano ascoltare questa musica ad alta risoluzione, cosa che non era possibile fare attraverso un PC. E quindi abbiamo avuto l'idea di realizzare un prodotto innovativo che permettesse di ascoltare la musica digitale scaricata da internet, la musica cosiddetta liquida, utilizzando appunto il PC come sorgente e l'amplificatore, l'impianto stereo di casa per la riproduzione. Questa idea, con chi la condivide, quante persone, chi lavora insieme a lei e come intendete svilupparla? All'inizio eravamo semplicemente mio marito ed io, che abbiamo curato sin dalla progettazione, la realizzazione e la commercializzazione del prodotto. Poi ci siamo accorti che la nostra attività aveva iniziato ad avere successo e abbiamo pensato che poteva essere interessante sviluppare una linea di nuovi prodotti sempre innovativi, soprattutto creare un'impresa più grande, dare la possibilità ad altre persone di lavorare all'interno della stessa azienda. E quindi, a proposito di questo, siamo riusciti ad entrare in contatto con dei finanziatori che ci hanno supportato e ora, grazie a questo, adesso noi nel giro di pochi mesi siamo diventati un'azienda leggermente più grande, nel senso che prima eravamo soltanto in due, adesso siamo in sette. Nel settore delle tecnologie avanzate a microonde e radiofrequenza troviamo un'altra donna premiata, la perugina Paola Farinelli, RF Microtech. È iniziato, diciamo, grazie a dei progetti di ricerca che avevamo in corso, che ci avevano permesso di sviluppare dei componenti, brevettarli, quindi avere dei brevetti a nome nostro, e quindi da lì è nata l'idea di appunto mettere su una società per vendere questi prodotti poi della ricerca, parlo di ricerca applicata nel campo delle comunicazioni e delle comunicazioni satellitari. Siamo partiti subito con l'idea appunto di vendere questa antenna per la quale avevamo ottenuto due brevetti, e a fianco alla vendita dell'antenna comunque ci proponiamo come venditori di un servizio di progettazione e prototipazione di componenti a microonde. Che cosa facevate? Dove eravate? Quanti anni avevate quando è nata? In realtà ecco, è nata negli anni post laurea che ci hanno visti impegnati in un dottorato, quindi eravamo di fondo tre ragazzi che lavoravamo insieme, ognuno nel suo dottorato di ricerca. Quindi avevamo sui 26-27 anni quando ci siamo resi conto che quello che stavamo sviluppando poteva avere anche un impatto commerciale e poter essere venduto. Quindi da lì si è iniziato a pensare l'idea di creare una società per appunto vendere questi prodotti, e poi nel 2007, praticamente alla fine della borsa di dottorato che avevamo, abbiamo visto che era il momento giusto per iniziare a mettere su la società. Voi siete già un po' il futuro, però come lo vedete il prossimo passo, e soprattutto vi sentite degli eroi nel farli, questi passi? In realtà abbiamo dei prodotti su cui puntiamo e che se riusciamo a dimostrare che funzionano come pensiamo, sicuramente ci aprono veramente la strada. Al momento la nostra strada veramente stiamo avendo diverse richieste, soprattutto fuori Europa, quindi da India e Cina. Diciamo che siamo dei giovani che provano a costruire il loro futuro. Il premio per prodotti e soluzioni innovative per il mercato energetico è assegnato a una donna e un'azienda della provincia di Pisa, Sandra Magnani, di Samares. La mia idea è partita da già una conoscenza del settore dell'energia, che io ho avuto modo di far crescere negli ultimi anni in cui sono stata vicepresidente in Alcatel. In quanto per Alcatel ero anche, fra gli altri compiti che avevo, era quello di essere responsabile in tutto il mondo del mercato energia, oil and gas e utilities per tutte le divisioni di Alcatel. Diciamo che mi sono messa in proprio dopo 22 anni di esperienza professionale, quando ero poi un manager apicale di una grossa multinazionale. Qual è stata la prospettiva positiva che l'ha aiutata, e invece quali sono stati gli ostacoli che l'hanno frenata anche all'inizio? Particolari ostacoli non ne ho trovati. Chiaramente per aprire una nuova azienda occorre avere il coraggio di rischiare in proprio, avere molta convinzione su quelle che sono le proprie idee. Io poi ho avuto la fortuna di avere degli amici che nello stesso momento in cui io stavo creando l'azienda, stavano creando un'altra azienda che opera come integratore di impianti fotovoltaici e mi hanno offerto di diventare consoci nelle due aziende e anche di sviluppare per loro tutta la parte elettronica di controllo degli impianti fotovoltaici. Questa collaborazione ha favorito il fatto che Samares sia stato in grado di generare fatturato fino da subito, sostanzialmente autosostenersi ed autofinanziarsi finora. Per il futuro l'azienda intende seguire quello che era il disegno originario, cioè operare come azienda che mette sul mercato delle soluzioni innovative che abilitano un uso più intelligente dell'energia. Lei si sente un eroe per aver attraversato anche questo periodo difficile? No, direi no, non mi sento un eroe. Direi che ho fatto una cosa che è abbastanza vicina a quella che è sempre stata la mia indole, di comunque farsi carico di responsabilità. A me piace vedere realizzate le idee abbastanza creative che di solito ho. Obiettivamente, insomma, è una bella sfida. Non da ultimo la cultura, che con Patrizia Sandretto Re Baudengo della fondazione omonima ha trovato germogli nuovi e terreno fertile a Torino e non solo. Ho deciso di dar vita alla fondazione, che è un ente no profit ma che in questi anni ha cercato di lavorare in un modo anche imprenditoriale, perché fare cultura vuol dire posti di lavoro, vuol dire persone che tutti i giorni lavorano, vuol dire una grande attenzione verso quella che è la formazione di nuove professioni. Quando io ho iniziato a occuparmi di un centro d'arte contemporaneo come il mio non ve ne esistevano molti in Italia, quindi è stato importante vedere cosa invece vi era all'estero per cercare di portare in Italia queste esperienze che appunto già esistevano, ma cercando ovviamente di adattarle a quella che era il nostro paese. Un lavoro nuovo che quindi, ecco, anche la necessità, come dicevo, di creare delle nuove professioni. Non esisteva così chiaramente la professione del registrar, i curatori si iniziava a parlare ma non era ancora chiaro in che ruolo dovesse trovarsi all'interno di un'istituzione come la mia, ma soprattutto tutta una serie di nuove attività legate al modo di ricevere i nostri visitatori, quindi una grande attenzione per esempio a delle figure nuove come quello dei mediatori culturali. Infatti credo di poter dire che siamo state una fra le prime istituzioni ad aver portato in Italia il ruolo del mediatore e del formatore del mediatore, due figure nuove al punto tale che mentre esistono sul manuale europeo delle professioni museali e sono riconosciute, non lo sono ancora nella carta nazionale delle professioni museali in Italia. Certo, la cultura come valore comune a tutte le persone che le lega è una base ovviamente etica per tutti, si sente un eroe in questo compito? No, assolutamente no, non mi sento un eroe, così come, ecco, quando parlo, io sovente parlo al plurale perché credo che la forza di una fondazione come la mia è proprio il fatto di avere vicino a me tanti giovani miei collaboratori che tutti i giorni con professionalità e con serietà lavorano per la cultura. Mi sento una donna che ha voluto partecipare in modo più attivo alla vita culturale del nostro paese. Avete ascoltato Voci d'impresa, vite e storie dietro l'azienda. Tutte le puntate sono disponibili sul sito internet www.radio24.it. Buona serata e a domenica prossima.